e la notte mi copre. Io per lei faccio tutto, sai perché? Io per lei, io per lei morirei, per quegli occhi vivrei. Questa vita